succederà mai questo? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Diciamo che sto bene anche se sto un po' rosicando dal punto di vista sportivo e che mi piacerebbe allenare, però a livello umano sono soddisfatto perché ho una famiglia straordinaria, ho la possibilità di tutti i giorni di parlare con le persone che mi vogliono bene e quindi la vita va avanti. Sarà sempre aperta, è inutile nasconderci, è una ferita aperta perché emotivamente faccio ancora fatica a vedere la nazionale, a sentire l'inno, a vedere questa maglia azzurra, quindi le partite le guardo il giorno dopo quando c'è già il risultato, quindi emotivamente non sono coinvolto. Ma che bello! L'ansia di rincorrere una panchina, ma è rosico perché mi piacerebbe averla. Ciao a tutti. Cesare torna a farsi vivo il 14 giugno di un anno fa. L'Italia aveva battuto l'Inghilterra, eravamo alla vigilia della disgraziata partita contro Costa Rica. Sembra passata un'eternità. Cesarone nel frattempo ha fatto un giretto in Turchia, è tornato e adesso rosica. Con me Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Poi difendiamo un po' Prandelli. Sì. Ma dipende. L'abbiamo massacrato per un anno, oggi io lo difendo. Va bene, vediamo cosa dicono gli ascoltatori. 800 24 00 24. Capitan Pardo, buongiorno. Come va? Bene. Nel bene, mezzo bene. Del mar. Sì, quasi a Marettimo, fatemi 2.000-3.000 miglia. No, devo dirti che anch'io, innanzitutto io mi ricordo che per lungo tempo questo paese malato di dietrologia è stata la discussione perché non si fosse dimesso. Io ribadisco che comunque rinunciare a uno stipendio in questo paese qui è un atto di grande coraggio e lui l'ha fatto, poi ha preso la panchina, è andata male, ma insomma io dico che Prandelli dal punto di vista soprattutto del mettersi la faccia mi sembra uno che ci è sempre stato e in fondo anche l'onestà di questo sfogo mi sembra che lo no, ma non sui comportamenti non c'è da discutere. Se è discusso invece facciamo fatica da morire a sentire per lui. Luigi, però collegamenti con nel mezzo del mar diventano complicati. Ora proviamo ad avvertirlo, Giovanni Capuano vuole difendere Prandelli, c'è stato invece chi non l'ha fatto, Valentini ha fatto partire la ruota, ex segretario generale della Federcalcio, e Bonucci ha detto al mondiale l'abbiamo preparato davanti al computer, era meglio stare un po' più sul campo, no, che su quello virtuale del PC dell'ex CT. Pensate che brutte parole che sto dicendo. Prandelli ha parlato anche di questo. Non penso che abbia i mezzi per poter giudicare una preparazione, non penso che abbia le conoscenze. Così come quando 2 anni fa andai a trovare Luis Enrique a Roma, nello spogliatoio c'erano tantissimi computer. Vabbè, un conto tantissimi computer, ma ha ragione, però ha ragione. Io un anno dopo sentire tutti i protagonisti di quella sciagurata spedizione scaricare un po' per volta le colpe soltanto su un uomo, io trovo un'operazione quantomeno ingenerosa. E quindi secondo me oggi Prandelli ha ragione, perché se quel mondiale è stato organizzato così e quindi male, ha portato ai risultati che tutti conosciamo un anno dopo, Prandelli se ne è assunto la responsabilità, si è dimesso, come è giusto che fosse, e tanti tanti altri invece continuano a raccontare la favola che è colpa di qualcun altro. E quindi, siccome oggi Prandelli un anno dopo fa anche bene a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sì, forse poteva anche farlo pure prima. Poteva anche farlo prima, probabilmente è stato anche bloccato da accordi. Lui da poco ha rescisso il contratto col Galatasaray, quindi sai che ci sono clausole di riservatezza, perché lui ha parlato dell'esperienza turca, ha parlato anche di vicende che magari ci interessano meno, ma che forse fino a qualche settimana fa non avrebbe potuto affrontare. Il tiro al Prandelli in questo anno è stato uno sport abbastanza diffuso in Italia. Sì, e secondo me è stato diffuso anche parte, il tiro agli altri che avevano fallito. D'accordo. No, i responsabili due sono i responsabili perfino per il tiro al Berzotto. I responsabili dopo il Messico, per il fallimento del mondiale. Oggi, un anno dopo, se ci voltiamo indietro, nell'immaginario di tutti sono Prandelli e Balotelli. Sono certamente due responsabili di quello che è successo, però noi possiamo serenamente dire oggi che non sono gli unici due. Su questo nessun dubbio, però Balotelli era un giocatore, doveva essere forse il nostro capo giocatore, Prandelli era il capo di questa spedizione e il resto dell'idea che negli ultimi due anni dopo gli europei non abbia lavorato benissimo. Abbiamo degli ascoltatori informatissimi come Carlo da Cosenza, che scrive: ultima chance per Balotelli, De Laurentiis lo vuole fortemente al Napoli, non so se sia vero. Giorgio De Luca, tifoso napoletano, mi fa così con la manina, ma che stai a dire? Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. Mi piacerebbe ripropormi, mi piacerebbe essere sul campo, perché penso di poter dare ancora molto. Mi piacerebbe accettare una sfida forte. Tutti convocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Tutti convocati. Eccoci tornati, siamo partiti da Prandelli, ma sul un altro discorso interessante, quello che fa oggi il Corriere della Sera con Fabio Monti sull'isola immaginaria dei famosi, magari alle Maldive, magari no, saranno lui e molti altri in quest'inverno. E proviamo a sentire Pardo se c'è. Sì, perché il vento è calato, come va? Il vento è calato. Ho preso anche la mano. Hai cazzato la randa. Hai messo la manina come Cassano. C'è il vice capitano dottoressa Iacolina che mi ha detto giustamente: il vento viene di là, cambia orecchio. Quindi siamo a questi livelli di. Va bene. I potenti mezzi di tutti i convocati. No, poi non ci dobbiamo dimenticare, poi chiudiamo il discorso, scusami, che Prandelli comunque ha fatto un capolavoro nel 2012. Questo non lo possiamo cancellare. Cioè, secondo me, se per fare un'analisi onesta di questi quattro anni, sicuramente il mondiale fallimento, lo sappiamo tutti, lo sa lui per primo, probabilmente certe cose non le rifarebbe in maniera diversa. Una su tutte, secondo me, è fidarsi di Balotelli così tanto, affidargli le chiavi. Io credo che lui si sia sentito abbastanza tradito da Balotelli nell'esperienza brasiliana, non soltanto dal punto di vista tecnico, e per quanto invece riguarda il 2012, però, che comunque è stato un europeo, l'Italia ha fatto risultato. Sì, no, ma non è tutto bene, infatti stiamo discutendo quindi gli altri due anni di Prandelli, cioè quelli che ci hanno portato fino al mondiale. Scusami, anche questa cosa, ad esempio, che ha detto in maniera, secondo me, un po' inelegante Conte l'altra sera, per cui sì, se noi non saremo teste di serie è colpa di Prandelli. Prima. Allora, va ricordato al signor Conte che Prandelli ha lasciato l'Italia 14esima in questo meraviglioso ranking FIFA. Se tutto va bene, quando uscirà la prossima classifica saremo 16esimi o 17esimi se il Cile farà particolarmente bene nella Coppa America. Allora, addossare a Prandelli la responsabilità del fatto che nelle ultime 6 partite l'Italia di Conte ha vinto solo contro l'Albania in amichevole, io trovo sia un po' inelegante. Sì. Emiliano Mondonico, buongiorno, come stai? Buongiorno, sono nella mia isola felice con mia moglie e la mia nipotina, sto pescando in un fossato con una canna, con attaccato una corda. Si prende qualcosa? Dove sei? Qui fuori dalla cascina, c'è un fossato. E la nipotina c'è in mano la canna con la corda, con un pesce di plastica attaccato. E chi sta meglio? E chi lo tira su prende il pesce e perciò canna, diciamo, pesca, questa lo diciamo abbastanza no no no una canna, una canna di bambù. No, no, sai, e chi sta meglio lui. Può invitare un sacco di allenatori l'anno prossimo in cascina, sì, con molto piacere. Ancelotti, Spalletti, chi ti piace di più, chi è il tuo compagno ideale? Ancelotti, Spalletti, Mazzarri, Lippi, Donadoni, Guidolin, Prandelli, chi vuoi, chi inviti? Il mio compagno ideale è Prandelli, per tantissimi motivi, perché è stato mio giocatore, è stato mio compagno di gioco alla Cremonese, e perciò è chiaro che ho per lui e con lui un rapporto diverso da tutti gli altri. Però per non mettere nessuno dietro al carro, vi invito tutti, mangiamo pane e salame, e alla fine saremo tutti ben contenti. Sì, ma, sì. Guarda, ma anche già martedì per me possiamo fare, se volete. Ma sai, riunirli tutti. Facciamo la diretta di tutti con la diretta della cascina, con piacere. Se il telefono lo porto io, che funziona benissimo. Certo. Il salame lo porto io, va benissimo. C'è chi porta il salame, chi porta il telefono, il vino chi lo porta? Io Capuano. Portiamo noi. Ci vabbè, la redazione porta il vino. Infatti ogni tanto penso che abbiate un po' bevuto, però si capisce che hanno il vino buono, adesso capisco. Ora portatelo voi. Senti, però portiamo anche Carlo Ancelotti, Sì, tutti, ma ci mancherebbe, nessuno, assolutamente nessuno è più antipatico di un altro. Sappiamo le difficoltà. Anch'io le ho vissute, le difficoltà che hai nel fare allenatore, perciò bisogna avere solo grandissimo rispetto di tutti quanti, soprattutto per chi questo mestiere l'ha fatto o lo sta facendo. Sei d'accordo che qualcuno negli ultimi tempi, anche negli ultimi giorni, ha un po' mancato di rispetto a Prandelli? Capisci che tutti sono saltati sul carro del vincitore, abbiamo battuto l'Inghilterra, tutti sul carro. Poi abbiamo perso su un colpo di spalla negli ultimi 2 minuti, 3 minuti, che cavano, ne so, 5 minuti, e tutti giù dal carro, e tutti giù per terra. È un giro tondo proprio il fatto di saltare su e giù dal carro. Però l'ho sentito, l'ho visto in televisione, forse perché era senza barba. Diciamo che l'ho visto con la barba intanto che allenava, e mi sembrava proprio un personaggio incredibile. L'ho visto ieri come lo conoscevo io, senza barba, così, con quegli occhi che sicuramente non erano occhi felici, mi ha fatto molto tenerezza, essendo più giovane di me, fortunato lui, mi ha fatto molta tenerezza, e mi sono sentito ancora più vicino a lui, e gli auguro no, in questo momento, di non trovare una squadra, perché sai, sì, ho voglio lottare, poi perdi una partita ed è subito il mazzaccio. Meglio aspettare un po', tranquillizziamo ancora un attimo, poi dopo chiaramente questo penso sia uno dei personaggi migliori tra i tanti che abbiamo a questi livelli, perché non dimentichiamoci quanto di buono e di bello ha fatto questo come allenatore dell'Italia, e non solo. Ma poi l'anno sabbatico va di gran moda, no, Pierluigi? Quasi ce lo prendiamo anche noi l'anno sabbatico. Cosa ne pensi invece tu delle parole di Conte, cui faceva riferimento Giovanni prima? Non sono parole eleganti quelle lì, insomma. Io credo che Conte, guarda, io sapete, una scelta che ho caldeggiato e la condivido ancora. Secondo me Conte è un bravissimo allenatore e può essere veramente l'ideale per dare alla nazionale quel rango e quel peso politico, magari sgomitando, che serve per poter avere certi spazi e per poter provare a combattere contro il calcio di club. L'importante è che Conte abbia voglia. Quello che in quest'anno alcune cose hanno funzionato, molte cose hanno funzionato. In certi momenti sembra che Conte non sia felice, no? Forse si immaginava un percorso più facile proprio da questo punto di vista politico, di spazi per i famosi stage, per le famose prerogative che un allenatore deve avere, perché è chiaro che uno deve allenare lì. Quindi, insomma, se Conte recupera la voglia, non si lascia portare via da altri pensieri, evita con i suoi avvocati di fare lo spaccone, di dire lei non sa chi sono io, adesso mi dovete giudicare subito, perché sennò, un po' come il discorso di Vidal, no? Che facciamo il discorso di Vidal, che lì per lì dopo l'incidente ha detto se i PM vanno avanti e mi processano, sì, poi, fanno un torto al Cile. Oggi c'è stata un'altra puntata, pare che abbia dato anche un cazzottello a un poliziotto, quindi a maggior ragione. Sì, sì, ma no, ma insomma queste cose qui sono cadute di stile, capisco, poi chiaramente. No, a me dà fastidio avere lì uno che ogni tanto ti dice: ma sono qui, però non sono tanto contento, ecco, sono qui un po' per farti piacere. Per me è bravissimo. Se con te ha voglia, se non ha voglia, magari se la fa venire, visto che è sotto contratto. Io volevo chiedere ancora Emiliano Mondonico invece cosa ne pensa di Milan e Napoli che cambiano profilo, in particolare il Napoli che sembra tornato, ha cambiato filosofia, no? Un Napoli minimalista con Sarri. Il Napoli di Sarri, perciò Sarri ha avuto nell'Empoli 4 anni per mettere in piedi una squadra che è perfetta. Adesso ha 4 giorni. Quattro mesi. Diciamo che in questo momento ha 4 mesi di tempo per mettere in piedi un Napoli che vinca, un Napoli che faccia risultati. Alla fine contano i risultati, ma chi se ne frega chi gioca bene, chi gioca male. Capisci che alla fine c'è chi vince e c'è chi perde. Chi perde può anche giocare benissimo, però non gliene frega nessuno. Gli unici che hanno onori e titoli sono quelli che vincono. E perciò 4 mesi per vincere. Sì. Come? Giocando bene, giocando male, su calcio di rigore, su schemi provati e riprovati. Poi alla fine si può sempre dire che sono tutti degli schemi, sì, perché purtroppo il pallone da solo non entra nella porta. No, con un anno di contratto non puoi che lavorare così. E Sinisa a Milano come lo vedi, al Milan? Bello, io mi auguro veramente che Sinisa continua a essere se stesso, che non faccia entrare Berlusconi in spogliatoio, ad esempio, no? attaccare No, che quando entra attaccatelo e allora è chiaramente perfetto, e penso che Milan abbia bisogno di questo, così come penso che il Napoli abbia bisogno di un allenatore diversissimo da quello che c'era. Il Milan ha bisogno di allenatori diversissimi dagli aziendalisti che sono stati Seedorf e Pippo Inzaghi, il quale è un altro di quelli con cui i rapporti sono buonissimi. E quando cambia allenatore devi prendere uno che sia nettamente diverso. Certo, mi sembra che Mihajlovic sia nettamente diverso sotto tutti i punti di vista. E perciò mi auguro che sia quello che ci vuole in questo Milan, perché non abbiamo ancora capito di chi è la colpa. Ma tu a Pippo cosa consiglieresti? Stare fermo, studiare, trovare subito una panchina? Perché lui dice che ha dentro il sangue il fatto di fare l'allenatore. Devi trovare subito una panchina, sai perché? Perché se passa un anno più nessuno si ricorda di te, questo non lo deve dimenticare. Quindi nessuno. Non è un problema di serie, serie A, serie B. Assolutamente. Sono d'accordo. È che siamo in tanti, e chi rimane un anno, poi chiamalo anno sabbatico, chiamalo come vuoi, ma chi rimane un anno senza contratto è chiaro che l'anno dopo fa molta molta fatica. Poi gli vengono gli occhi di Prandelli, se no. Sì. No, se no hanno quegli occhi tristi, ma non del perdente, tristi di chi ha dentro chissà quale rabbia, e invece deve sempre dire: questo è bravo, quello lì è bravo, l'altro è bravo. Quello che su è bravo, dimmi. No, volevo sapere, a proposito della suggestione che c'era stata a un certo punto sul Napoli, tu adesso hai detto che al Napoli serviva un allenatore completamente diverso, è per questo che Prandelli, secondo te, alla fine non ce l'ha fatta? Perché serviva rispetto a Benitez una discontinuità caratteriale, anche se poi Prandelli mi ha mandato un messaggino per una dichiarazione dicendo che poi non è sempre chi urla che è più forte, no? Non è che chi è autoritario per forza sia autorevole. Però insomma al Napoli serviva adesso un allenatore molto diverso da Benitez. A Napoli, come a tutte queste grandi squadre, serve un allenatore che venga da un momento positivo. Diciamo che Sarri viene da questo momento positivo, era un po' al di là della posizione in classifica della sua squadra, è stato un po' l'allenatore dell'anno, almeno sotto tanti punti di vista. Ed è chiaro che questo influisce l'annata dove ti gira bene, perché nessuno ha niente da dire. Cioè Sarri a Napoli nessuno ha avuto niente da dire. Magari c'è questa differenza tra i 4 anni e i 4 mesi, ma questo lo, lo scopriremo solo vivendo. Come tu invece vieni da un'esperienza negativa, sono lì tutti a guardarti, sì. Tutti si ricordano dell'annata negativa. Certamente. E allora è chiaro che non è neanche quattro mesi, prima voi avete detto di quattro giorni. Però un anno diciamo di contratto su quattro giorni. Qualche giorno in più, ma sì, devi assolutamente vincere, sperare di non perdere la prima partita di campionato. Ciao Emiliano, grazie, a presto. Grazie, ciao, grazie un abbraccio. Intanto ho mangiato un mottarello, scusate. Noi abbiamo preparato il vino, martedì, no? Martedì tutti convocati, facciamo dalla cascina Mondoni. Ci fermiamo per la borsa invece. Torniamo subito dopo. Attaccare! Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Che dire? Arieccici. Tutti convocati. È il primo convocato di oggi tra gli ascoltatori, Max dalla provincia di Reggio Emilia, 800240024, Giovanni Capuano qui con me, parlo al telefono in mare, ma si sente bene, adesso non ti muovere, spero che nulla cambi. Max. Buongiorno. Serpenta. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E complimenti a Radio 24, che è fantastica. Grazie. E volevo fare una riflessione su Italia di Prandelli. Comunque a livello mediatico si fa una gran confusione su Balotelli. Visto che io sono un grandissimo appassionato di calcio, anche minore, vedo le cose secondo me diversamente da molti italiani che parlano. Penso che la prima partita con l'Inghilterra l'ha vinta Mario. La seconda contro il Costa Rica, nessuno ha segnato il Costa Rica in quel mondiale, era una squadra veramente difficile da affrontare, l'abbiamo affrontata male per il Costa Rica. Nella terza Balotelli è stato sostituito al 45esimo e un certo signor Marchisio si è fatto espellere. Pensi se si fosse fatto espellere Balotelli come è stato espellere Marchisio, cosa sarebbe successo? Nessuno parla mai invece di questa cosa. E abbiamo preso un gol all'80esimo di testa perché Buffon non è uscito e poteva benissimo uscire. Questo per dire che è un peccato che si distrugga un giocatore poverino con delle grandissime qualità, che però comunque noi siamo riusciti tutti quanti, il 99% degli italiani la pensa contro Balotelli, però ecco una riflessione che volevo chiedervi. Sì, volevo chiedere, visto che Mondonico secondo me è un grande, come gli allenatori italiani in questo momento non sono più capaci di costruire una squadra, gestiscono degli uomini e li mettono in campo con dei schemi. Mondonico creò un grandissimo Torino, che è quello che perse quella finale, ma costruì una squadra. Poi è chiaro che mi sembra che Sarri l'abbia fatto, per fare il nome di cui stavamo parlando prima, mi sembra che Allegri l'abbia fatto, comunque sia partito dalla base della Juventus di Conte e poi abbia costruito una sua Juventus comunque vincente. Poi è chiaro che quando parliamo di squadre di questo tipo, cioè di squadre al top europeo, gli allenatori sono uomini che gestiscono un sacco di cose, non solo quello che accade sul campo. Pierluigi, sei ancora lì? Sì, sono qui. No, è pieno, secondo me, di allenatori italiani che hanno costruito squadre in tempi anche recenti, insomma, da Sarri a Di Francesco allo stesso Ventura, a Gamperini, a Pioli ha fatto delle cose eccezionali. No, mi sembra. Posso salutare il presidente campione d'Italia che sta a Torino e che non è si chiama Andrea Agnelli, ma sta dall'altra parte del Po. Urbano Cairo, buongiorno e complimenti. Buongiorno, grazie a voi. È stata una bella vittoria, sono contentissimo, veramente. Campione d'Italia, precisiamo, per la squadra primavera, quindi come dire, no, non vantiamoci per una cosa, come dire, cioè non prendiamoci quel campione d'Italia in un senso superiore a quello che è. Ma però lo scudetto che torna sulle maglie del Torino, sicuramente. Sono molto contento, è stata una grande gioia, una grande emozione. Questi ragazzi sono ragazzi veramente straordinari, ragazzi per bene, ragazzi che hanno avuto anche una crescita importantissima nell'anno, grazie, insomma, credo al mister Moreno Longo, che ha fatto un lavoro eccellente, e poi credo anche a tutta la società che li ha fortissimamente appoggiati e aiutati a crescere costruendoli bene, avendo dei bravi maestri di calcio, dei bravi preparatori, sì, di ogni genere. Quindi insomma direi che è stata una bellissima cosa, e tra l'altro segue a un anno scorso in cui arrivammo in finale purtroppo perdendo ai rigori, ah, e a due anni precedenti in cui arrivammo nelle Final Eight uscendo ai quarti, insomma, sì, direi un percorso di crescita. A me preme, sì, fare una sola domanda, poi la lascio a Pardo Capuano per altre. Quale, sì, progetto avete per questi giocatori campioni d'Italia? Cioè qual è nelle vostre idee il futuro di questi giocatori, di una parte di questi giocatori? Prima squadra, sviluppo, sì, da altre parti? Ma direi che così come per i primavera delle passate stagioni, che sono andati poi a giocare in Serie B facendo anche molto bene, in alcuni casi essendo anche molto richiesti quest'anno anche da società di Serie A, penso a un Parigini che ha fatto benissimo a Perugia ed è un 96, penso ai due fratelli Gomis, portieri, Alfred e Lis, che hanno fatto bene a Trapani e ad Avellino, penso a Chiosa che ha fatto benissimo ad Avellino e che ce lo chiedono in tanti, penso a Barreca che abbiamo mandato a giocare a Cagliari e ha fatto benissimo a Cittadella, terzino sinistro del 95, per dirne alcuni, ma poi insomma Suciu piuttosto che Diop, Scaglia ed altri ancora. Poi noi abbiamo anche Comi e Benedetti che erano nostri, sì, del nostro, sì, vivaio, che poi, sì, sono, sì, stati successivamente... Quindi vanno in giro a giocare, giustamente, a fare esperienza, sì, e vengono monitorati dal Torino e non... Sicuramente sì, noi diciamo quello che noi facciamo è quando ci sono giocatori che hanno fatto bene con noi in primavera e che hanno richieste, che sono piaciuti, ovviamente tendiamo a mandarli a giocare, perché è fondamentale che un giocatore, sì, sì, sono d'accordissimo, faccia esperienze e giochi. Abbiamo alcune buone richieste per alcuni nostri giocatori, da Rosso a Morra ad altri ancora. Alcuni li terremo, quelli più giovani, tipo Zaccagno il portiere che ha fatto benissimo parando il rigore decisivo, rimane con noi, è un 97 e sarà certamente un pezzo, come dire, una colonna importante del prossimo anno, anche perché poi giocheremo la Youth League, quindi è importante adesso fare una squadra che possa competere bene, possa fare un buon campionato. No, ma sono perfettamente d'accordo su questo fatto, devono andare a giocare, cioè devono andare a giocare e devono trovare una sistemazione in un campionato da grandi, che non vuol dire un campionato di massima serie, ma è un campionato dove giocano professionisti, scafati, devono fare esperienze in questo modo, e poi vediamo quelli che hanno la stoffa per diventare giocatore. Le chiedo un istante di pazienza, traffico, poi la lascio a Pardo Capuano. Prego. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, per Urbano Cairo, presidente del Torino, campione d'Italia primavera, lo ripeto, una domanda da Pierluigi Pardo e una da Giovanni Capuano. Pier. Sì, allora, innanzitutto c'è da notare che conosce perfettamente il curriculum di tutti i giovani. L'ho notato anch'io. Ecco, forse addirittura meglio del palinsesto della Peppe, comunque alla pari, quindi questo è un dato assolutamente... Alla pari. No, volevo capire, questi due anni penso siano stati eccezionali, no? Sono due anni che l'hanno, credo, anche ricompensata di qualche critica che c'era stata all'inizio, ormai proprio acqua passata. Adesso l'asticella... No, ricordiamo, in questi due anni c'è stata la qualifica di ritorno in Europa, c'è stata Bilbao, c'è stata la vittoria nel derby con la Juve, c'è questo scudetto primavera. Adesso l'asticella come si fa a farla salire? Qual è l'obiettivo? Ma io direi che dobbiamo continuare a fare le cose che abbiamo fatto in passato con lo stesso spirito, quindi andando alla ricerca dove lo spirito è, da una parte continuare a fare le cose fatte bene in società, perché poi l'aver ottenuto questi risultati nel settore giovanile in primavera, ma anche negli allievi nazionali che sono andati in finale, che sono andati nelle Final Eight perdendo poi, ma insomma comunque sia ben figurando, idem i giovanissimi, benissimo la Beretti che vinse lo scorso anno lo scudetto e quest'anno è arrivata prima nel suo girone e poi non si sono fatte le finali per motivi di organizzazione della Lega, insomma, quindi direi che è un percorso globale del settore giovanile che ha dato risultati e che testimonia, come dire, un'organizzazione anche societaria di appoggio, di investimento, di scelta di bravi istruttori eccetera. Per la prima squadra ovviamente abbiamo avuto due anni molto buoni con la qualificazione in Europa League, il bellissimo percorso, tutto quello che tu hai detto e va benissimo. Oggi dobbiamo continuare su quel terreno, su quel cammino, cercando possibilmente però forse di tenere di più i nostri giocatori importanti, che è quello che io voglio fare e che volevo fare peraltro anche lo scorso anno, poi fui spiazzato un pochino dalla richiesta di partirsene prima del tempo di Immobile, insomma, però certamente lo scorso anno non l'avrei venduto certamente. Quest'anno dei nostri pezzi da 90 io cercherei di tenere tutti o veramente il più possibile. Quindi anche Darmian? Anche Darmian certamente sì. Ho posto diciamo un limite che è diciamo da entro giugno barra entro l'inizio del ritiro noi dobbiamo avere, magari più giugno, noi dobbiamo avere l'offerta se mai ci fosse la voglia di qualcuno di acquistare uno di questi giocatori nostri che sono molto e lui fosse così disponibile e così voglioso di andare, ma tutto deve avvenire evidentemente entro giugno, immediatamente dopo, il che vuol dire certamente prima del ritiro, perché poi una volta in ritiro uno deve andare in ritiro e pensare solamente al ritiro, a prepararsi bene alla stagione futura. E quindi insomma l'obiettivo nostro è quello di tenere il più possibile i giocatori fortissimi che abbiamo, la squadra, la rosa che abbiamo, rinforzandola con quei 4, 5, 6 innesti, vediamo quanti saranno. Intanto abbiamo già acquistato dal Cagliari Velar, e questo è un fatto assolutamente ufficializzato, ed è un buonissimo giocatore, terzino sinistro, anche di spinta, ma che gioca benissimo a 5, un 89, brasiliano molto bravo. Oggi abbiamo ufficializzato Aquà, una mezzala destra dell'Offenheim, che giocava al Parma e poi alla Sampdoria lo scorso anno, buonissimo giocatore. Quindi ne mancano 4 di innesti. Zapata? Qualità, ne mancano, sì, ne manca, qualcuno manca ancora. Poi c'è Zapata, giusto? No, beh, no, Zapata no. Zapata è un... Io parlo delle cose già che fatto, facciamo, no, so. Quindi delle cose fatte. Presidente, posso chiederle una cosa? Se, prego. Visto che Torino, e l'abbiamo scoperto anche l'anno scorso, due anni fa, è una piazza ideale per rilanciare anche dei giovani che hanno qualche difficoltà, le piacerebbe fare lo stesso percorso che ha fatto con Immobile, Cerce, ad esempio con il Sharawi? Ma guardi, El Shaarawy è un buonissimo giocatore, peraltro non si è mai parlato di lui con nessuno, per cui anche lì ho letto sul giornale di El Shaarawy, ma è una cosa di cui non si è mai parlato con nessuno. Io sono anche in buoni rapporti con Galliani, per esempio, e comunque sia con la società, ma non ho mai avuto contatti per El Shaarawy. Quindi, come dire, molte volte sui giornali si leggono delle cose, come cioè anticipano i tempi che magari non verranno mai, no? Per cui... Quindi magari quando Galliani avrà finito con Martinez, Ibra, con Dogbia, però una telefonata potrebbe fargliela. Ah beh, questo non lo so, questo chiedetelo a lui, io non lo so, questo non sicuramente Sharawy ha avuto dei momenti brillantissimi, poi insomma nelle ultime due stagioni sicuramente sicuramente Cairo risponderebbe alla telefonata. Ah, io rispondo a tutte le telefonate, anche la nostra, per fortuna. No, beh, anche la vostra ovviamente, ma so, rispondo a tutti, però come dire, no, dobbiamo essere, ci deve essere molto sicuri delle cose che si fanno, insomma, ecco. Pierluigi, no, vuoi aggiungere qualcosa? No, che qualche volta il giornale, no, vuole sapere Valdifiori? Ma Valdifiori, boh, non so, vediamo, io non c'è molta, come dire, c'è una grande, c'è molto traffico intorno a questa situazione, non lo so, diciamo che vediamo un pochino, non saprei dire, non sto seguendola direttamente io, ma c'è un po' l'impressione che stia andando verso Napoli. Ma io diciamo no. che sì, può essere, diciamo che non saprei dirvi oggi con certezza. Sicuramente il Napoli è una squadra importante che ha budget notevoli, poi insomma vediamo vediamo come matura la situazione. Un argomento che magari sta trattando direttamente il nostro direttore sportivo, però insomma vediamo nelle prossime ore che accade, ma diciamo che mi dice in 10 secondi se Verdi lo prendete voi, l'abbiamo visto anche con l'Under, oppure lo lasciate tornare al Milan. Anche qui dobbiamo vederci con Galliani, è una cosa che non abbiamo ancora visto insieme, e ne parleremo nei prossimi giorni, visto che l'ultimo giorno per le compartecipazioni è giovedì, quindi sicuramente entro giovedì ci sentiremo o vedremo per vedere insieme in maniera comunque così collaborativa di trovare una soluzione positiva per un ragazzo che ha fatto anche molto bene quest'anno ad Empoli e ha delle prospettive importanti, è un 92, giovane, ha grandissima qualità. Quest'anno devo dire, negli ultimi due anni ad Empoli ha fatto benissimo lo scorso anno e molto bene anche quest'anno, e quindi è un giocatore che ha delle prospettive notevoli. Grazie Presidente e complimenti. Grazie ancora. A voi, a complimenti. Grazie. Ancora Presidente Cairo, campione d'Italia. Compare invece, prima di lasciarlo veleggiar, rispondiamo ad Alessandro da Padova che ci aspetta da un po'. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti e grazie della convocazione. Prima di fare la mia domanda sono arrivato un po' in ritardo, salutare il mister Mondonico, che ritengo una persona eccezionale sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sportivo, soprattutto per la battaglia che ha vinto, diciamo, sì, per molti motivi, grande persona e grande personaggio. Esattamente. E niente, la mia domanda era relativa al calciomercato dell'Inter. Io volevo sapere, si parla tanto di tesoretto e vendita di grandi giocatori, tra virgolette, perché grandi giocatori penso che all'Inter adesso ce ne siano ben pochi, ma non sarebbe il caso, secondo voi, prima di pensare di vendere Kovacic, vendere giocatori che non hanno mai fatto la differenza e che comunque non sono ventenni, tipo Guarin, oppure liberarsi dei tra virgolette pesi morti, come possono essere giocatori mai esplosi come Botta, Laxalt, ho capito eccetera. Alessandro, però per vendere ci vuole anche qualcuno che compra. Vendere Icardi non è difficile, vendere Laxalt mi sembra un po' più complicato, Pierluigi. Cambiano le cifre, ma la Kovacic, è un bel dibattito, dovremmo farlo, nel senso che ti dico la verità, a me sembra un giocatore chiaramente talentuoso, però le quotazioni che ho sentito mi sembrano quotazioni congrue, cioè onestamente 25-30 milioni per Kovacic mi sembrano, non sarei scandalizzato da una cessione. A me sembra che Kovacic abbia un piccolo grande difetto, che è quello di toccare troppe volte il pallone, di giocare un po' troppo lui, ma insomma le qualità ci sono. Capisco pure che sicuramente, insomma, tifoso interista, se gli levi in questo momento la trilogia è Andanovic, Icardi, Kovacic, sono i tre giocatori che danno più speranza di tutti anche in prospettiva futura, e quindi è chiaro che toccarli sembra quasi un'eresia. Se cominci ad andare per sottrazione diventa complicato, però quelli sono quelli che possono avere mercato. Pier, ci sentiamo domenica. Ci andiamo a fare adesso un risotto col capriolo, perché la temperatura è... Non ho dubbi, dalle parti di Favignano in barca. Sono risotto anche con le tre, capriolo. Sono le tre, quindi l'ora giusta. Cos'è, la merenda? È la merenda per il risotto col capriolo. Lo lasciamo, allora lo lasciamo andare. Ci sentiamo noi dopo il giornale radio. È sicuro? 100%? Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Sono le 15. Tutti convocati. Da più parte rimbalza notizia secondo cui per Valdifiori a Napoli è fatta, quindi sarebbe stata superata, Giovanni Capuano, quella meravigliosa clausola di De Laurentiis, diciamo bizzarra clausola secondo cui quattro anni di contratto, ma 800, dopo il secondo ti posso vendere a chi voglio, sì, senza consenso. Vabbè, cioè, era come tornare indietro di 20 o 30 anni, i giocatori venivano spostati dalle società, esatto, e loro dovevano prendere semplicemente note di dove andavano. Ciao Federico Casotti, buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Beh, una clausola molto vintage, mi aspettavo anche la reintroduzione dei parametri, già sì, che c'eravamo. E dello Ius Prime Noctis. Sì, la scala mobile, sì. Potremmo reintrodurre un sacco di cose. Sì. Ma abbiamo chiamato Federico Casotti perché voleva approfondire, grande esperto di calcio francese, voleva approfondire il discorso che facevo prima, forse nel GR, lo shopping che le squadre italiane stanno facendo in Francia. Leggo in questo momento che Condombia è a un passo sì atteso in giornata, anche questa è una notizia che leggo ora, poi non so se sia confermato o no, però mi spieghi questa tendenza allo shopping, mi spieghi Condombia, Imbula tutti questi giocatori che le nostre società stanno facendo a gara per strapparsi. Beh, il calcio francese ha sempre avuto un certo appeal nei confronti dell'Italia perché comunque rimane il campionato di formazione migliore in Europa in questo momento, quello dove puoi pescare degli under 23 mediamente con un'esperienza e un livello qualitativo più alto rispetto agli altri campionati, anche in rapporto al prezzo. Il discorso del rapporto qualità-prezzo è messo un po' in discussione a mio parere proprio da queste due operazioni. A me stupiscono più i 20 milioni richiesti o comunque di quali si parla per Imbula, perché sono risentono e sono in qualche modo drogati proprio dalla valutazione che viene fatta di Condogbia. È evidente che se per Condogbia non si parla per meno di 30-35, a quel punto anche Imbula ha una valutazione proporzionale. Mi sembrano però entrambe quotazioni diciamo un filino sopra. Ma chi dei due viene pagato troppo? Condogbia, sbilanciati. A mio parere Condogbia è pure a cascata Imbula. Diciamo che i 10-15 milioni di differenza tra i due ci stanno, 35 milioni per Condogbia, che viene da due stagioni piene, una con il Monaco, poi quella con il Siviglia in precedenza, è una quotazione che risente evidentemente dei vari passaggi di mano, dei vari passaggi di proprietà e in qualche modo anche dell'influenza di Doyen, che tende sempre, l'abbiamo visto anche con altri giocatori di profilo simile, penso a Mangala ad esempio, a gonfiare le quotazioni al di sopra del loro reale valore attuale. Sì, però Doyen di devi dirlo a voce bassa, perché lo dico senza le vocali, è tema delicatissimo in questi giorni. No, a proposito di Condogbia, la posizione ufficiale del Milan di questi minuti è che nessuno ha l'accordo con il Monaco, nemmeno il Milan. Sono tre club che sono in corsa, uno è l'Inter, l'altro dovrebbe essere il Barcellona, perché in Spagna si continua a scrivere che in realtà esiste un accordo già tra il Barcellona e Condogbia, che tornerebbe volentieri in Spagna, e il Milan aspetta fiducioso perché in realtà poi l'accordo con il giocatore sarebbe abbastanza vicino e quello con il Monaco si troverebbe in qualche modo. Quindi questa è la situazione. Ma invece di Ibra cosa mi dici, Federico? Secondo te torna? Di Ibrahimovic, insomma, tutto sembrava apparecchiato per il gran ritorno, invece a quanto pare comunque le argomentazioni almeno in via provvisoria. Io personalmente con Ibrahimovic e con Raiola non do mai nulla di scontato fino all'ultimo minuto della finestra di mercato, quindi il fatto che a giugno si parli di un Ibrahimovic convinto di rimanere al Paris Saint-Germain secondo me non ha nulla di definitivo. Sì. È evidente che schermaglie, dai. Ma diciamo che è una trattativa che è molto più difficile del previsto. Se davvero il Milan vuole puntare su Ibrahimovic, sicuramente non lo avrà liberato a costo zero come sembrava a un certo punto che potesse essere. Sarà una trattativa che probabilmente, come un fiume carsico, sparirà, poi ricomparirà e probabilmente ci terrà compagnia fino a tutto agosto. Io so che probabilmente sbaglieremo tutti, ma in realtà io ho l'impressione, ho parlato anche l'altra sera con Fabio Parisi, che conosce bene le cose francesi, che in realtà il tema questa volta sia leggermente diverso, e cioè che il Paris Saint-Germain in realtà sia vincolato e non possa separarsi da Ibra quest'anno perché è sottoposto a sanzione UEFA per il fair play finanziario, e quindi comunque la cifra che incasserebbe per Ibra gratis o comunque poco, perché Ibra oggi ha un valore di mercato abbastanza basso, non sarebbe sufficiente poi per andare a prendere il sostituto che loro hanno già scelto e che è Lacazette del Lione, e che però costerebbe immensamente di più, e loro, così come capita per l'Inter e per tutti quelli che sono sotto sanzione UEFA, questo tipo di operazione non possono farlo. Questa è un po' la spiegazione che mi è stata data. è una spiegazione plausibilissima, anche perché il Paris Saint-Germain in questo momento si trova appunto nella situazione di non avere poi moltissime alternative, anche ad esempio non è un caso che non si parli neanche più della cessione di Cavani, ad esempio, sì, esatto. Perché comunque il Paris Saint-Germain, per il tipo di percorso che aveva fatto negli ultimi anni, in questo momento ha anche pochi papabili sul mercato da poter andare a insidiare. Conviene a questo punto cercare di tenersi quanti più campioni possibile e provare a francesizzare un po' più la squadra, e in questo senso già le mosse dell'anno scorso, anche magari di basso profilo come Aurier, vanno in questo senso, e la Cassette, che è stata fatta una stagione pazzesca con il Lione quest'anno, è il classico giocatore del momento che può essere preso dal Paris Saint-Germain e venduto benissimo da Olas, che lo sappiamo perché le italiane ci sono cascate tanto, è uno dei mercanti più abili d'Europa. Grazie Federico, grazie, alla prossima. Grazie a voi, ciao, buon pomeriggio. Grazie Federico Casotti, salto in Coppa America subito. Allora Cueva rientra ancora, lui mette il pallone dentro, una grande giocata che favorita da un tocco di un compagno permette a Pissarro di segnare il gol del vantaggio. Pissarro 1-0 per il Perù. E così nella notte Perù batte Venezuela 1-0, tutti a 3 punti nel girone del Brasile. Ma guarda chi c'è laggiù, Filippo Maria Ricci, che sta lavorando come un pazzo riempiendo pagine e pagine della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo, come stai? Buongiorno. Guarda, ti fanno scrivere anche le pubblicità, eh? Buongiorno, siamo qua, siamo ancora in piedi, eh? Siamo ancora in piedi. No, sento come, scusa, Vidal, però senza bere. Ti senti come Vidal ma senza bere, quindi la Ferrari non l'hai ancora distrutta? Cioè, è ancora intera? No, qui parcheggiata fuori. Parcheggiata. Io ci tengo a certe cose. Sì. Posso mica rovinarle così? Ma, però è divertente, dai Filippo. La Coppa America è un calderone divertentissimo. A parte il fatto che il livello è molto alto, perché prima stavamo facendo un giochetto mentale. Cioè, non so quale sia più alto come livello, se l'europeo o se la Coppa America, considerate le squadre. No, attenzione, ti sei dimenticato la Coppa d'Africa. L'ho dimenticata apposta la Coppa d'Africa. Cioè, siete veramente, come mi trattate? Vabbè, va. Io ho accettato questa. Per me è un grande tradimento essere qua, cioè, sì. Lasciare nel continente di adozione l'Africa per venire in Sud America. Comunque, vabbè, per Messi e Neymar si può fare, via. Sì, anche per. Però, anche sì, no, per livello eccezionale, a parte c'è grandissima intensità, le partite, insomma, sono, per me sono molto belle. Non so se è lo stesso anche da lì, e al di là di risultati, gol, non gol, gioco, però c'è un'intensità notevole. Grande velocità, grande grinta, si vede che ci sono rivalità che hanno delle radici profonde, sì, millenarie, e molto molto bello, insomma, l'altro giorno Brasile, Colombia, Argentina, Uruguay, e qua ci si picchia sul serio, però diciamo come a ragion d'essere, cioè, non per scherzo, non si fa finta. Tanto leggevo che stasera c'è Cile-Bolivia, questa notte nostra italiana, c'è Cile-Bolivia, che è un po' come mettere insieme Argentina e Inghilterra all'epoca delle Malvinas. Esatto, perché c'è prima dello sbocco al mare. Esatto, la Bolivia vuole lo sbocco al mare appoggiato dal Brasile, bellissimo questo, lo sbocco al mare ce l'avrebbe nel Cile, quindi la cosa più bella è che ho appreso venendo qui che la Bolivia c'ha un ministero della Marina, però non c'ha il mare. Non so se anche la Svizzera c'era il ministero della Marina, forse dopo aver vinto la Coppa America l'hanno creato. Lo stanno aspettando, lo sbocco al mare, no? Lo stanno dicendo. Poi ci sono un sacco di misteri buffi, no? Mi segnalava prima Giorgio Duca Zuniga, dal 26 ottobre 26 minuti nel Napoli. Negli ultimi 10 giorni ne ha giocati 225 con la maglia della Colombia, amichevoli comprese. Sì, sì, sì. Non ha mai giocato, ha fatto 3 spezioni di partita con Napoli a marzo. Poi non è che dici si è rotto i legamenti l'anno per anno, insomma, un infortunio un po' misterioso, aveva problemi, è sparito. No, qui titolarissimo e poi, insomma, grossa prestazione l'altro giorno col Brasile, è stato uno dei migliori, insomma, no? Aveva di fronte comunque grande nazionale, si è difeso benissimo. E a proposito, ecco, anche lì la rivalità, no? Tutto dice no, ma io con Neymar tutto a posto, insomma, si sono veramente, erano scintille continue, altro che in ricordo della ginocchiata mondiale dell'anno scorso. Però sì, è così, la Coppa America diciamo fa anche miracoli, diciamo. Ma è vero che Murillo e Miranda possono ripercorrere le orme di Bergomi, Ferri, Lucio e Cordova, leggevo oggi in uno dei pochi pezzi delle prime pagine non firmato da te sulla dunque, Gazzetta. Detto che all'Inter tutto può succedere e che abbiamo visto diciamo gente con un discreto pedigree finire sugli scogli e non riprendersi più, io diciamo parlando da uomo che segue la Liga vi dico che questa potenzialmente è una coppia spettacolare. Poi dopo con l'Inter non si sa mai, però questi due sono due giocatori, tanto uno più giovane, 23 anni Murillo, 30 quasi 31 Miranda, quindi c'è tutto, gioventù, esperienza, però sono due difensori spettacolari che all'Inter secondo me, con tutto rispetto per chi c'era, compreso il capitano Ranocchia, e questa è gente di un livello superiore. Ma Miranda, 31 anni, scadenza nel 2016, li vale 15 milioni? Adesso qua metti, te l'avevo fatto, tu pensavi, ti faccio la domanda facile, Miranda è forte, sì, Miranda è forte, ma vabbè, vale quella valutazione lì? Allora, mettiamo, ti rispondo così, io vivo a Madrid, ho visto pagare 40 per gli chiaramenti, per cui e quindi vale tutto è possibile, e quindi vale no, tutto. Però adesso, questa è una facile via di fuga. Detto, parlando più seriamente, sì, secondo me li vale, perché l'Inter ha bisogno comunque di difensori forti, veri, autentici, che siano veramente di grande qualità, e questo è attenzione, due partite del Brasile, ci sono tre difensori per due posti, Miranda è l'unico che ha tenuto sempre il posto, una partita in panchina che ha così il vaghe di milioni ne è costati tipo 40, e una panchina per David Luiz che ne è costata addirittura 50, sì. Vabbè, lì siamo, lì siamo, no? Alla per cui, ecco, se i suoi compagni di reparto sono stati pagati così tanto, per me l'Inter fa bene, visto che ha bisogno urgente di un difensore forte, fa bene spendere 15 minuti, per cui rispondo sì, li vale. Senti, un'ultima cosa, oggi scrivi invece di Mandzukic, del suo odio, della sua antipatia nei confronti di Guardiola, per il filosofo Guardiola, come Ibra. Mandzukic che arriva alla Juventus, è il giocatore giusto secondo te, ad esempio, per far coppia con Morata? E poi l'Atletico Madrid perché sta disfando la squadra? No, beh, ma l'Atletico Madrid si muove. Allora, intanto l'Atletico Madrid c'ha Correa, che è il centravanti dell'Argentina Under 20, che fa molto bene, che non è stato fermato perché aveva un problema al cuore, adesso si è ripreso, sta giocando bene, e quindi in prospettiva questo è un ragazzo che va bene. In difesa, al posto di Miranda, c'è Jiménez, l'altro centrale uruguaiano, per cui sono messi bene. Torniamo a Mandzukic. No, Mandzukic è un ottimo giocatore, su questo non si discute. Un prezzo sembra eco di 18 milioni, insomma, si può fare, è un grande centravanti. Il problema è che un po', cioè, cominciano a essere un po' tutti uguali, perché Mandzukic, Morata e Llorente non sono così dissimili. Rimane Dybala, che dovrebbe fare il Tevez, ma bisogna vedere, perché il passaggio, no, dalla provincia diciamo alla finalista della Champions League non è così semplice. Per cui Mario è, per me, ripeto, va bene prenderlo, però non so se tatticamente è un giocatore molto molto preciso, molto, cioè, un profilo tagliato nel legno. Se alla Juve serve, avranno le loro idee, lì quindi non entro nel discorso, ma a Rotta, se hanno deciso di prenderlo, avranno la loro idea di gioco, magari vogliono cambiare alcune cose. Però è chiaro che è molto simile. L'unica cosa, ci sto pensando proprio ieri sera, magari possono spostare, diciamo, cioè, l'utilizzo di Morata può essere un po' modificato, però vediamo, sono un po' curioso di sicuramente ci sarà un'idea, non è che vanno a prendere un giocatore. Beh, chiaro, tanto per andarla a prendere, sì, no, comunque ho lo stesso dubbio che hai tu, cioè anche a me sembrava un po' d'altro, strano caso, Mandzukic credo sia il primo giocatore dell'Atletico Madrid dell'era moderna che va via pagato meno di quello che è stato pagato l'anno prima, perché credo che l'abbia pagato di più, no, al Bayern. Sì, quei centravanti hanno sempre fatto delle spettacolari plusvalenze, e con Mandzukic la cosa non gli è riuscita. Ma questo cosa vuol dire? Cioè, nasconde un messaggio, è semplicemente... Beh, insomma, all'Atletico non è andato bene, cioè, non gli serve quel tipo di giocatore, insomma, loro non hanno... Beh, intanto, voglio dire, è chiaro che tu arrivi in una squadra con la scimmia di dover sostituire Diego Costa, è complicato, poi nel solco, appunto, capito, lì sono Torres, Forlán, Agüero, Falcao, Diego Costa, insomma, roba complicata. E tu dici prima o poi doveva anche andare male. Esatto, prima o poi esatto, potevano sbagliare. E in più gli è andata bene con Griezmann, che è andato, che sta giocando molto bene, per cui ci sta che l'Atletico perda qualcosa, però provi immediatamente a correggere il tiro. Comunque, come diceva giustamente il Ciolo, io ho parlato personalmente, un mese fa, cioè, comunque ha fatto 20 gol. Non è andata male, è chiaro che poteva farne di più, doveva farne di più, non si è praticamente, è un po' limitato probabilmente, adesso senza arrivare al talebanismo guardioliano, no? Che bisogna scrivere un libro di rapporti tra Guardiola e il centravanti, no? Che sono sempre complicati, però sicuramente è un centravanti, Mario è uno che gioca solo in un modo, però va bene anche così, al Bayern, certo, giocare in quel modo, giocare in quel modo è bravissimo, non ha molte varianti, non è un esatto, giocatore, esatto. Non è Tevez, stai, facciamo una corta, grazie Phil, ci sentiamo presto, buon lavoro, siamo preoccupati per Filippo Marelli, anche perché è un casino. Scrivilo un pezzo ogni tanto, che almeno siamo sicuri che... No, ma anche perché lì è un casino dietro l'altro, cioè, e c'è quello che si schianta, e poi adesso salta fuori che ho già dato un pugno a poliziotto e sto parlando di Vidal, e c'è Neymar che fa cazzotto in campo. Certo, Spriglia ha detto che è pronto per l'Actor Studio, Neymar. Sì, a Spriglia, ormai, sai, fa tutto quello che vuole. Gianpaolo, Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, io volevo fare un intervento sul Benitez, andate via di Benitez, in particolare su Aurelio De Laurentiis, che è stato contestato, che viene contestato a Napoli per l'eventuale ridimensionamento del Napoli. Sinceramente io non lo capisco, perché Sarri, in aver ingaggiato Sarri, Sarri è stato il migliore, secondo me, con i mezzi a disposizione, allenatore di Serie A di quest'anno. Ha acquistato a gennaio Gabbiadini. In più ha blindato Higuain e quindi sicuramente rimarrà a Napoli per l'anno prossimo, e questa continua contestazione che a Napoli, io non vivo a Napoli, vivo a Roma, ma me lo dicono, insomma, che addirittura manifesti per strada contro Aurelio De Laurentiis è incomprensibile, cioè in 10 anni comunque ci ha portato al nostro reale, la nostra reale dimensione. L'abbiamo detto molte volte, è una disputa filosofica, Gianpaolo, perché per come ce la raccontano, per come la vivono a Napoli, è quasi veramente una sorta di battaglia di religione, cioè Benitez rappresentava il tecnico di grande profilo internazionale, quello che Mazzarri non era per caratteristiche sue, rappresentava l'apertura verso l'Europa, rappresentava grandi ambizioni e aspirazioni, e invece con Sarri si torna a un allenatore italiano, alla prima esperienza di una grande squadra, e quindi in qualche modo al mazzarresimo. Guarda, io dico quello che ho detto a tanti amici napoletani, e quindi che noi oggi 19 giugno oggi ancora aspettiamo di capire esattamente da De Laurentiis che cosa vuol fare del Napoli l'anno prossimo, perché io non sono così convinto ad esempio che Higuain sia blindato. No, io neanche. Non sono così convinto che sia blindato Callejon, Mertens e tutti gli altri. Però secondo me va via. E secondo me manca un po' di chiarezza, non è tanto il problema di Sarri, che evidentemente si è meritato la chiamata al Napoli, ma manca un po' di chiarezza su qual è il progetto immediato su questo Napoli. L'anno scorso, pur in mezzo a mille errori, questa cosa era stata detta, 2 anni fa ancora di più, e difatti poi si erano raccolti dei risultati. Quest'anno mi sembra che questa chiarezza non ci sia, e mi sembra che anche l'altra sera che De Laurentiis ha detto faremo un Napoli, insomma, ha lasciato intendere un po' ridimensionato, provinciale, italiano, ma anche nell'accezione positiva del termine, però questo progetto ai napoletani non l'ha ancora comunicato, e mi sembra che sia un problema questo a metà giugno. Allora, io voglio, nel salutarvi, voglio ricordarvi, e ovviamente avremo tutto il tempo e il modo per parlarne, che la finale scudetto di basket è ora sul 2-1, questa finale inedita. Sassari, ieri una partita meravigliosa, tra l'altro, ha battuto 80-77 Reggio Emilia, quindi Reggio Emilia conduce 2-1. Domani gara 4, sempre in Sardegna, e mi sembra che questa finale comunque vada, sarà un successo per il basket italiano. Sentiamo Sacchetti, i Sassari e Menetti di Reggio Emilia dopo la gara. Sicuramente ci sono voluti i 5 minuti della Dinamo che abbiamo fatto in campionato e qualche volta anche in Coppa, quello che per riprendere una partita per i capelli, pressione tutto campo, Logan ha iniziato a fare canestro, una cosa importante, però era una faccia troppo brutta quella del terzo quarto, perché oltre a non fare canestro di tutto erano palle perse e contropiede, però questo è un bel messaggio. abbiamo perso la calma quando siamo andati sotto di 2 a 1.20 dalla fine, che la partita era assolutamente aperta. Cincia purtroppo, anche perché stiamo giocando naturalmente in condizioni meno mate, quindi stiamo giocando con tanti minuti, con tanti giocatori, abbiamo perso lucidità nel momento più bello, però non abbiamo mai migliorato e non abbiamo mai mollato. Eravamo a 2 minuti dalla fine, eravamo 3-0, credo che abbiamo dato un altro bel segnale anche alla Dinamo. Insomma, ci siamo, vogliamo continuare a crederci e a giocare in questa maniera. Questi erano i due allenatori protagonisti della finale di basket. Giovanni, ci vediamo domenica. Domenica alle 17. Presenti, sempre e comunque presenti, dalle 17 alle 19 con tutti i convocati weekend. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domenica e poi lunedì. Secondo me questo è tutto da rifare.